Per alcuni parlare di peccato è anacronistico, è un tema per religiosi e moralisti. Eppure, nonostante le varie convinzioni, il peccato non è un'opinione, ma la trasgressione della legge di Dio. Se non ci fosse la legge non ci sarebbe la trasgressione, come se non ci fosse il codice stradale non ci sarebbero i trasgressori. Quando si parla della legge di Dio non si intende solo quella data nella sua parola, ma anche la legge morale che abita in tutti gli uomini, sebbene questa sia contenuta nelle scritture. La legge morale è tutto ciò che intendiamo di bene e di male, essa viene vagliata dalla coscienza e dalla cultura. Perciò, di fronte alla realtà del peccato, le reazioni possono essere due. O non c'è è nessuna legge, e questo è impossibile, o chiudiamo gli occhi e diciamo che la legge non esiste, e di conseguenza non esiste la trasgressione. Ma poiché io desidero essere realista, poiché riconosco che tutti siamo soggetti alle varie leggi, è più saggio parlare di peccato. In un certo senso, il peccato è una cosa astratta, come del resto l'amicizia, l'amore, l'odio, l'affetto. Perciò scelgo di parlare non tanto del peccato in sé, ma delle conseguenze che il peccato produce. Al termine delle riflessioni, si capirà quanto sia importante questo tema. Per comprendere le conseguenze del peccato, inizieremo ad indagare nel libro della Genesi, quando Eva fu tentata dal serpente. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente, ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei. Ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo. Egli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare?» Genesi 3, 6-11. Adamo ed Eva sono stati creati e posti nel giardino con un solo divieto: non potevano mangiare di un solo frutto. Ma la donna pensò che prendere il frutto fosse conveniente e ne prese. Aveva trasgredito un ordine dell'Eterno. Subito dopo la loro trasgressione, l'uomo e la donna si accorsero di essere nudi, si vergognarono e si copersero con delle foglie di fico. La prima conseguenza del peccato fu dunque la vergogna. La vergogna è una reazione della coscienza, della morale, e essa abita in ogni essere umano. Perciò, se noi proviamo vergogna, dobbiamo ricordare che questo atto così comune è la conseguenza del peccato. In seguito Adamo ed Eva udirono la voce dell'Eterno che camminava nel giardino. Questo episodio è stato fin troppo allegorizzato, ma la realtà è che l'Eterno era concretamente con Adamo ed Eva nel giardino e aveva comunione con loro. Nel sentire che l'Eterno si stava avvicinando, Adamo ed Eva si nascosero dalla paura. La loro trasgressione aveva prodotto un'altra conseguenza, la paura e l'istinto di fuggire da Dio. Questo particolare porta ad una riflessione molto solenne. Quando verrà il giorno del giudizio e gli uomini saranno giudicati per i loro peccati, non ci sarà bisogno che l'Eterno li cacci dalla sua presenza, perché loro stessi fuggiranno in un altro luogo per nascondersi. Quando Pietro si rese conto, in occasione della pesca miracolosa, che Gesù non era solo un uomo, disse gettandosi ai suoi piedi: «Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore». Quando il profeta Isaia vide la gloria dell'Eterno, vide anche tutta la sua indegnità. E così è stata l'esperienza di Mosè e di tutti quelli che sono stati alla presenza della santità di Dio. Perciò è normale che una persona abbia paura di Dio, perché tale sentimento è il risultato del peccato, ma anche se è normale non è giusto. È come dire che è normale arrabbiarsi, ma non è appropriato. Quando una persona si è riconciliata con Dio mediante l'accettazione del sacrificio di Cristo, realizza che non ha più paura di Dio perché in lei subentra la consapevolezza di essere stata perdonata da tutti i peccati e prova una pace divina mai conosciuta. Però, anche per un figlio di Dio, può esistere la paura. Non paura di condanna, ma di ciò che offre la vita. Ma anche in questo caso, la presa di coscienza dell'amore di Dio, il suo dimorare all'ombra della sua misericordia, l'amore cacciano via la paura. Il peccato rompe il rapporto di comunione con Dio, l'amore lo ripristina. Il peccato getta il cuore nell'angoscia, l'amore risolleva dando nuove forze, nuove speranze. Proprio perché il peccato ha la proprietà di separare l'uomo da Dio, il giorno in cui Adamo ed Eva trasgredirono l'ordine di Dio, morirono. Come in tutte le lingue, una parola ha più significati. Ma il termine morte esprime principalmente un concetto di base, la separazione. In effetti con la disubbidienza, Adamo ed Eva si separarono dall'Eterno e per questo, in conformità all'avviso precedentemente ricevuto, essi morirono. La morte spirituale portò una lenta e inesorabile decadenza del loro fisico e così, al momento opportuno, Adamo ed Eva morirono anche fisicamente. Perciò la morte spirituale e la morte fisica sono la conseguenza del peccato, anche se non vi è nulla di più comune. Questo aspetto dovrebbe far riflettere soprattutto quando si partecipa a un funerale. La morte di un familiare o di una persona cara è sempre dolorosa, ma noi dovremmo ricordare in quel momento che stiamo assistendo ad una inesorabile conseguenza del peccato. Chi crede che il peccato sia solo un'idea dovrebbe riflettere. È vero che l'abitudine ci impedisce di pensare, ma da quando il mondo è mondo le mele sono sempre cadute dagli alberi. Eppure, chiedendosene la ragione, qualcuno scoprì la legge di gravità. Così, anche se tutti i giorni, ad ogni istante, in questo mondo un'anima lascia questa vita terrena, occorre riflettere perché moriamo. Non so a quale conclusione si possa arrivare, ma la parola di Dio ha già dato il suo responso. Moriamo perché facciamo parte di una razza peccatrice. Proprio perché facciamo parte di una razza peccatrice, la conseguenza del peccato ha prodotto anche la sofferenza. La sofferenza in questa vita è disseminata dappertutto, ma il peccato ha toccato due aspetti molto personali. La donna avrebbe partorito con dolore e l'uomo avrebbe fatto fatica nel lavoro. Anche che la donna partorisca con dolore e che l'uomo si affatichi nel lavoro per procurarsi il cibo è molto comune, ma sono pur sempre le conseguenze del peccato. E le conseguenze del peccato sono andate ben oltre, hanno inciso sulla terra. In effetti, e questo soprattutto nell'agricoltura, non sempre il risultato del lavoro è proporzionato alla fatica. La terra, per un motivo o un altro, non sempre rende ciò che dovrebbe rendere. E non solo. Il peccato si ripercuote anche nel creato. Ecco cosa disse l'Eterno al suo popolo. Nell'avvertirlo se avesse peccato. Il cielo sopra il tuo capo sarà di rame, e la terra sotto di te sarà di ferro. L'Eterno muterà la pioggia del tuo paese in sabbia e polvere, che cadranno su di te finché tu sia distrutto. Deuteronomio 28, 23-24. Abbiamo noi coscienza che i nostri peccati influenzano anche la situazione atmosferica? I nostri peccati condizionano pure i rapporti umani. Paolo scrisse nella sua seconda lettera a Timoteo: «Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza, da costoro allontanati». 2 Timoteo 3, 1 e 5. Se noi stiamo vivendo tempi difficili, non è per nessun'altra ragione, se non a causa del peccato. Com'è possibile negare l'esistenza del peccato quando abbiamo tutto? Ciò che ci occorre e i rapporti umani sono avvelenati. Proprio perché ci è il peccato, il malessere e il benessere sociale dipendono unicamente dalla giustizia dell'uomo. Abbiamo noi il coraggio di dire questo alle persone? L'Eterno si espresse così tramite il profeta Geremia millenni di anni fa, in merito al suo popolo. Sono come stalloni ben pasciuti e ardenti al mattino. Ciascuno nitrisce dietro la moglie del proprio vicino. Come una gabbia è piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganno, perciò diventano grandi e arricchiscono. Diventano grassi e prosperosi, sì, oltrepassano i limiti stessi del male. Non difendono la causa dell'orfano, eppure prosperano. Non difendono il diritto dei poveri. Non li dovrei punire per queste cose? Dice l'Eterno. E non mi vendicherò io di una simile nazione? Geremia 5, 8, 27, 2, 9. Non è forse il quadro della società di oggi? Proprio perché il peccato si ripercuote nei rapporti umani, prima di tutto, esso si ripercuote sull'individuo. Secondo la scrittura, il peccato rende incapace l'uomo di compiere il bene perché il peccato agisce sulla sua volontà, sulla mente e sulla coscienza, e gli impedisce di andare a Dio. E così, dopo aver valutato le conseguenze del peccato nell'uomo, nell'esistenza umana, nel creato, rimane un ultimo punto che non è possibile ignorare. Il peccato costringe Dio ad agire in maniera forte nei confronti dell'uomo. Mediante il profeta Osea l'Eterno, si rivolse al suo popolo con queste parole: «Poiché io sarò per Efraim come un leone e per la casa di Giuda come un leoncello, io stesso dilanierò e me ne andrò. Porterò via la preda e nessuno me la strapperà. Me ne ritornerò al mio luogo finché non si riconosceranno colpevoli e cercheranno la mia faccia, nella loro avversità mi cercheranno con diligenza». Osea 5, 14, 16. Il peccato non è un'invenzione dei religiosi, non è un'idea filosofica, non è un'opinione, ma è una triste realtà. Se non crediamo alla realtà del peccato, crediamo almeno alle sue conseguenze. È come dire, se non credi all'amore, credi alle sue conseguenze. Se non credi all'odio, osserva i suoi risultati. Io non so come chiami l'amore e l'odio, ma una cosa so, uno è l'opposto dall'altro. Io non so come definisci il peccato e la giustizia, ma una cosa so, il dolore, la sofferenza, l'allontanamento da Dio. La paura, l'orgoglio e l'incompatibilità sono trasgressioni alle leggi di Dio, perciò peccato. Se hai un altro nome da dare, mi potrebbe anche andar bene, ma alla fine concorderai con me che questi comportamenti negativi e nefasti non sono nulla di piacevole e ciò che non è bene per l'uomo non ha altro nome che peccato. Peccato, per quanto non tutti lo abbiano capito. Gennaio 2005, Ellero.